Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Otto minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana, di nuovo con voi Sebastiano Barisoni. Chiedo scusa subito per la cattiva qualità della voce che segnala i postumi dell'influenza che ha bloccato me oltre che altri colleghi in questi giorni. Detto questo, visto che non è notizia e sicuramente non è interessante, andiamo alla cronaca di questa giornata economico-finanziaria. Come già vi anticipavano i nostri GR, hanno raccolto un insieme di reazioni, quasi tutte diciamo critiche, le dichiarazioni del Presidente del Consiglio uscente Mario Monti sulle ipotesi di riduzione dell'IMU, ma anche di riduzione dell'IRPEF, di riduzione dell'IRPEF e IRAP dal 2014 e l'IMU dal 2013, più detrazioni su prima casa e figli, accrescere la detrazione sulla prima casa da 200 a 400 euro, raddoppio da 100 a 200 euro per ciascun figlio e anziano, fino a un massimo di 800 euro. E un costo, dice Monti, di 2 miliardi e mezzo che verrebbe coperto dal contenimento della spesa primaria corrente, che è pari a circa 3 miliardi. E poi Monti promette che se sarà il governo ridurrà la spesa corrente in 5 anni del 4,5%. Il rapporto, scusatemi, tra spesa corrente e PIL verrà portato ridotto del 4,5%. Reazioni politiche, e ci mancherebbe su questo, e sarà anche il modo per ragionare sui temi economici in questa campagna elettorale, perché ormai entriamo praticamente nel mese di febbraio, quasi. I dati che arrivano anche oggi dalla Confcommercio da un lato e riguardano soprattutto le retribuzioni, sono dati allarmanti. È vero che la Confindustria segnala come il 2013 dovrebbe essere il momento che stiamo attraversando, dovrebbe essere il punto più basso e poi ci dovrebbe essere una ripresa, si è toccato il fondo, dice la Confindustria, si va verso un rimbalzo, la recessione, che è la seconda in 5 anni, sta toccando il fondo più basso. Però, mentre anche comunque tra Confindustria e Rete Imprese per Italia, cioè Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, CNA, resta una profonda differenza sulle misure da prendere, perché il mondo del commercio è contrario a un innalzamento dell'IVA, che invece è una delle proposte avanzate da Confindustria per reperire le risorse, per diminuire poi invece le tasse le tasse in busta paga, le tasse sul lavoro. Dicevo, in un periodo in cui comunque continuano ad arrivare dati negativi sul fronte della congiuntura, pensate che oggi quello che riguarda gli stipendi, le retribuzioni, la fonte qui è l'Istat, segnala che nel 2012 gli stipendi, le retribuzioni sono aumentate solo dell'1,5%, siamo ai minimi come aumento dal 1983, ma soprattutto la differenza tra quanto sono aumentati i prezzi, chiamasi inflazione, e quanto sono aumentate gli stipendi, le retribuzioni, è massima dal 1995. Ora, è chiaro che con queste cifre i consumi scappano, non ci sono, diventano difficilissimi. Allora, a fronte di un insieme di dati che vanno avanti da 2 settimane di questo tenore, occupazione, calo e crollo dei consumi, retribuzioni, potere d'acquisto, le risposte che arrivano da questa campagna elettorale mi sembrano, oggi Monti lancia questo sasso nello stagno sulle tasse, ma mi sembrano sempre molto, molto così, propagandistiche, possiamo dirlo così, tutte concentrate, leveremo l'IMU, no, leveremo l'IRA, però intanto chiarisci da dove recuperi le risorse. E poi siamo sicuri che basti promettere un abbassamento delle tasse per dare l'idea di una visione strategica di come far uscire questo paese dalla recessione in cui si è ficcato e è finito? Allora, su questo faremo anche un punto di carattere politico, perché mi sembra che ci sia molta, molta reticenza ad avanzare proposte concrete. Il sospetto è che vi siano poche idee ma confuse, cioè che al di là di un generico abbasseremo le tasse, nessuno abbia un piano organico, sistemico, si direbbe una volta, fatto anche di politica estera, cioè di andare a Bruxelles a fare la voce grossa nei confronti della Germania, con un'alleanza con la Francia, cioè un piano vero e proprio che non si limiti a dire se governo io abbasseremo le tasse. Ecco. Perché questo è il tema politico di queste elezioni, cioè il tema economico e il tema politico. In questo si inserisce anche chiaramente la vicenda Monte dei Paschi, che sarà il tema nella seconda ora del programma, tema che si svolge sia sul fronte delle indagini giudiziarie, ma anche alla luce delle dichiarazioni, a mio avviso, così un po' incaute, non lo so, sulle ipotesi di commissariamento della banca. Perché lo dico? Perché il prossimo 6 febbraio si riunisce il Consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi per fare il punto sulla situazione dei derivati. La Procura di Siena continua le indagini sulla gestione della banca, però, voglio dire, nel momento in cui, come ascolteremo, il Presidente del Consiglio uscente Monti dice dell'ipotesi di commissariamento della banca, della realtà corrente della banca si occupa il Ministro Grilli. E dice, vabbè, però uno può, cosa vuol dire? La commissariata o non la commissariata? C'è l'ipotesi di commissariarla oppure no? E poi, questa mattina, ospite di Simone Spezia, il sottosegretario Polillo dice, beh, si potrebbe prendere in considerazione un'ipotesi svedese, se il patrimonio fosse insufficiente si può pensare anche a un'ipotesi nazionalizzazione, riferendosi a quello che fece la Svezia nel 92. Beh, non so, mi sembra un modo un po' così ardito, forse leggero, di trattare un tema come quello della vicenda del Monte dei Paschi. Notiamo modestamente uno scollamento tra i temi della campagna elettorale e i temi che stanno a cuore al Paese, no? E la difficoltà enorme in cui si trova il Paese, le famiglie, i lavoratori, i dipendenti, le imprese. Ricette ne vediamo poche, pochissime e sempre sotto forma di slogan, mi dispiace. E dall'altro anche la vicenda del Monte dei Paschi viene utilizzata come arma nella campagna elettorale, ma si fosse letta o vista in questi giorni, essendo con l'influenza, ho avuto anche modo di leggere con attenzione dal letto le cose, si fosse vista una proposta sistemica organica per evitare che una cosa del genere capiti anche nel futuro, mettendo anche sotto riflettore la Banca d'Italia, che non può dire semplicemente il Monte dei Paschi ci ha nascosto la verità, e gli ispettori che li mandi a fare? Si è mai visto un ispettore che va e il ladro gli consegna la refurtiva? La nasconde la refurtiva di solito, eh? E vale anche per il Ministero dell'Economia, che non può dire improvvisamente la cosa non è un fulmine a ciel sereno, era nota. E vale anche per l'aiuto dato al Monte dei Paschi dallo Stato italiano, dal governo Monti. Insomma, c'è una grande leggerezza propagandistica nell'affrontare temi che riguardano il rapporto banche-politica e anche governance bancaria da un lato, e nell'affrontare quelle che sono le ricette di sistema per il Paese, che non possono limitarsi a un generico abbassare, se vinco io abbasserò le tasse. Esiste già Cetola Qualunque, io vi dico già che fra un po' invitiamo Albanese in trasmissione, perché facciamo parlare di economia anche Albanese, ma e non sto scherzando, sono molto, molto serio. Tra l'altro Albanese, per informazione, ascolta frequentemente il nostro programma e quindi magari di economia è appassionato più di molti nostri politici. 349-238-6666 per i vostri sms e Facebook per chi vuole scrivere sulla pagina di Focus Economia appunto su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Intanto la borsa più 0,88% Milano, che è la migliore perché Parigi è invariata, Francoforte meno 0,30, Londra più 0,26, l'America meno 0,11%. Tra i titoli a Piazza Affari A2A fa il botto oggi, più 6%, poi ne parleremo. Mediolanum più 4,5, Banco Popolare più 3,20, Ansaldo STS più 2,80, Fiat Industrial più 2,70, Intesa San Paolo più 2,20 come Fiat Auto, Mediobanca più 1,90, Popolare Emilia Romagna più 1,70 come Unicredit, Parmalat più 1,60, Ubibanca più 1,5. Monte dei Paschi oggi poco mossa a 26 centesimi di euro più 0,15%. Negativa ST Microelectronics meno 1%, Autogrill meno 0,80% come Prysmian. Le altre notizie in breve: Toyota oggi è tornata, nel senso che il dato si è avuto oggi, a essere leader al mondo nelle vendite di auto, più 22% nel 2012, 9.750.000 veicoli venduti. Ha superato Volkswagen, che invece ne ha venduti 9 di circa 100.000 veicoli, e ha staccato Volkswagen, ma ha superato nuovamente anche General Motors, con un obiettivo quest'anno per Toyota di arrivare a 9.900.000 auto vendute. E poi una notizia che arriva dall'Islanda. Ricordate l'Islanda che a un certo momento, travolta dal crack finanziario, per avere le banche islandesi avevano sottoscritto strumenti derivati ad altissimo rischio che perdevano tantissimo, con banche olandesi, britanniche in primo luogo, l'Islanda a un certo momento disse: sapete che c'è, noi non possiamo ripagare le banche, i debiti. Certo, sono 300.000 abitanti più o meno, è una nazione che è più una città di provincia per quello che riguarda l'Italia, però oggi la Corte di Giustizia dell'EFTA, che è il Trattato di Libero Commercio con l'Unione Europea a cui aderiscono anche Islanda e Norvegia e ha sede in Lussemburgo, ha respinto tutti i ricorsi presentati dai paesi creditori, Olanda e Gran Bretagna in prima linea, ma anche Liechtenstein e la Norvegia, perché ha detto: la crisi finanziaria che nel 2008 ha travolto le banche islandesi è stata tanto enorme che non si poteva chiedere al paese di rimborsare gli stranieri che avevano investito nei conti Icesave della banca privata islandese Landsbank. I ricorrenti chiedevano in pratica di essere rimborsati in base alle regole della nuova direttiva europea, che fissava una soglia di 100.000 euro depositante. Invece il governo islandese ha indennizzato i depositanti esteri usando le leggi locali più restrittive. Ma in sostanza è un primo caso che io ricordo in cui si dice il crack era così alto che l'Islanda non poteva rimborsarla, con buona pace delle banche che erano creditrici dell'Islanda. Dalla Germania, l'asta dei bond a un anno, dei bot tedeschi a un anno, il tasso è tornato positivo per la prima volta da giugno. Ricorderete che nel periodo più nero dell'euro e dei debiti dei paesi del sud, il rendimento era negativo, cioè uno preferiva perdere soldi pur di prestarli alla Germania. Oggi il tasso è tornato in positivo dello 0,13%. C'è stata un'asta anche in Italia di CTZ, i tassi per fortuna sono scesi ai minimi da marzo 2010, cioè quello che ci è costato trovare finanziatori per il nostro debito è il livello più basso dal 26 marzo 2010 all'1,43%. E ancora i depositi delle banche italiane, lo ha fatto sapere la Banca Centrale Europea, a dicembre sono in aumento del 3,7%. E sempre a dicembre le banche italiane hanno venduto titoli di Stato per 13 miliardi e mezzo, scendendo a quota 356 miliardi di euro, che è l'ammontare dei titoli di Stato che sono in pancia alle banche italiane, titoli di Stato italiani. Allora, molti scrivono di Oscar Giannino e anche di altre. Allora, Oscar Giannino oscurato, no, non è oscurato, tra l'altro lo avremo ospite anche sulla vicenda Monte dei Paschi, non ho nessun problema. Esiste la par condicio, però siccome obiettivamente il movimento Fare fermare il declino di spazio ne ha molto poco, lo inviteremo a breve, forse già domani, perché non ho nessun problema, vado a riequilibrare la par condicio dentro il programma con tutte le volte che parliamo di Monti, Berlusconi e Bersani, su questo nessun problema. Ancora molti dicono si parla più di alleanze che di soluzioni a proposito delle elezioni. Avete ragione, questo è il punto, che vedo tutti impegnati a dire voto utile, mi alleo con Vendola, no, mi alleo con Casini, no, tenete fuori, addirittura anche tutte le polemiche veramente moderne e contemporanee sul fascismo, ma qualcuno che dica e proponga un piano organico in 5 punti, in 8 punti per come uscire con una manovra d'urto, terapia d'urto da questa crisi, non si vede. Si vede la proposta di Confindustria, si vede la proposta della CGIL, oggi avanzano proposte anche i commercianti, non so, poche idee ma confuse, chiedo, al di là dello slogan abbasseremo le tasse, ecco perché mi viene in mente Albanese, no? Era più chilo per tutti, cioè il tecnico palermitano, ma potrebbe dire lui la pronuncia corretta. Sul Monte dei Paschi, torniamo quindi a casa nostra, la Procura di Siena continua le indagini sulla gestione della banca, in particolare sull'acquisizione di Anton Veneta nel 2008. Beh, sappiamo già che tutta la vicenda, la madre di tutto questo problema nasce con l'acquisizione di Anton Veneta. Faccio notare che Anton Veneta, non dico che porti sfiga, però chi la tocca finisce male, perché l'ex governatore Antonio Fazio, forse di parlare di comici, Antonio Fazio, sulla vicenda Anton Veneta, ricorderete lo scontro Anton Veneta, il furbetto del quartierino, Gnutti, Ricucci, si bruciò le penne, andò a BN Amro la vendette a Santander la vendette a Monte dei Paschi, e pure a Monte dei Paschi non mi sembra che abbia portato bene pagare 9 miliardi, cioè 2 miliardi in più di quanto non la pagò Santander da Banca Anton Veneta, perché da lì poi è partito un meccanismo per generare cassa e anche poter fornire uno straccio di dividendo. Dicevamo però ipotesi di commissariamento. Allora, secondo me in questi casi, se c'è anche solo un velato rischio di commissariamento, prima si analizza e si decide, poi si parla, perché sennò crei panico per nulla. Comunque, oggi il presidente del Consiglio uscente Mario Monti, sull'ipotesi di commissariamento del Monte dei Paschi, così risponde. Sul tema Monte dei Paschi, che come ogni tema bancario è molto sensibile perché può avere conseguenze nel mercato, ci sono due aspetti nei quali io, come Presidente del Consiglio, tuttora in carica per gli affari correnti, non ritengo opportuno entrare. Uno sono le responsabilità del passato, un passato che precede di parecchio l'entrata in carica del governo che presiedo, e questo è oggetto di analisi e di indagine da parte della magistratura. Sono cose molto importanti che non tocca a me però descrivere. L'altra cosa che è istituzionalmente corretto che io lasci al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Vittorio Grilli, che interverrà domani alla Camera, è la descrizione e presa di posizione su alcuni aspetti della realtà corrente. Oh, lascio a Grilli la disamina della realtà corrente. Mi sembra un po' così, un po' pilatesca, si può dire. Detto ciò, il sottosegretario Polillo, che si lancia sempre in analisi, non so, azzardate, non so se siano azzardate, ma comunque poco caute forse. Beh, sentiamo che dice a proposito di un eventuale commissariamento della banca Monte dei Paschi. Nazionalizzazione. Noi ancora oggi non sappiamo esattamente quant'è la solidità patrimoniale di MPS, perché il passaggio dal semplice prestito alla nazionalizzazione deve scontare appunto una valutazione di bilancio che ancora non siamo in grado di fare, perché come sapete alcune carte sono state occultate, non si capisce quante sono le perdite non contabilizzate, quindi dobbiamo fare prima un'opera di pulizia all'interno della banca, vedere effettivamente quant'è il patrimonio effettivo della banca stessa. Sulla base di questo poi si può ragionare, se il patrimonio è del tutto insufficiente allora probabilmente anche un'ipotesi di nazionalizzazione alla svedese, come dicevo prima, cioè quando c'è stato il primo grande crisi bancaria in Svezia furono lo Stato intervenne nel capitale delle aziende, risanò le aziende e poi rimise sul mercato. Questa può essere un'opzione, Però la premessa di tutto ciò è capire esattamente come stanno le cose all'interno di MPS. Beh, rassicurante, no? Adesso stiamo tutti meglio, grazie sottosegretario, perché si dice bisogna capire cosa c'è dentro MPS e poi si può ragionare eventualmente se ci fosse bisogno di una nazionalizzazione. Io immagino che il correntista del Monte dei Paschi sia contento, e anche il dipendente. Stare zitti mai, vabbè. Un'agenzia appena battuta fa sapere che il comitato di presidenza dell'ABI, delle banche italiane, si riunirà giovedì 31 gennaio, proporrà in maniera unanime come nuovo presidente dell'ABI Antonio Patuelli, presidente della Cassa di Risparmio di Ravenna, perché Mussari si è dimesso dopo lo scandalo scoppiato. Molti di voi se la prendono anche con le banche stesse, che intanto c'è chi scrive cane non mangia cane, avevano messo Mussari a fare il presidente delle banche. Cosa volete che vi dica? No, ma veramente, cosa volete che vi dica? Forse non sapevano? Intanto il numero uno del Monte dei Paschi, Fabrizio Viola, poco fa ha detto in un incontro con la stampa estera: posso confermare che l'ammontare di risorse di cui abbiamo bisogno è di 3 miliardi 900 milioni, ossia quelli dei Monti Bond, e sono sufficienti a coprire le perdite causate dallo scandalo dei derivati. Confermando poi il consiglio di amministrazione previsto per il prossimo 6 febbraio. Ancora, per quello che riguarda invece le proposte che arrivano dalla politica, io oggi avevo anche in mente uno spazio dedicato a Davos, perché a Davos abbiamo visto e letto delle cose obiettivamente incredibili. Jamie Dimon che dice le regole sulle banche sono troppo rigorose, fatte troppo in fretta. Caro Jamie Dimon, ma lei si rende conto che non c'è una regola sul conflitto di interessi tra banche d'affari e banche che raccolgono risparmio, e la crisi è scoppiata 4 anni fa? Ma di che fretta e rigore sta parlando? Ma di che fretta e rigore sta parlando lei, che è il presidente del JP Morgan Chase? Poi su Davos faremo un approfondimento domani a questo punto, perché è interessante. Cioè, non vale niente come appuntamento di carattere previsionale. Io ricordo che nel 2008 si tenne, come ogni anno, a fine gennaio, non vi fu una riga sulla crisi che stava scoppiando e che scoppiò poi a settembre del 2008. L'unico che parlò fu Rubini, in tal senso, e fu anche preso per il sedere da Giulio Tremonti, allora ministro dell'economia, non ancora ministro dell'economia, che lo sbeffeggiò chiamandolo Udini. Ecco, ma tutti gli altri no, vi sarà un rallentamento, ma poi l'economia riprenderà. Davos è un momento per fare affari, anche perché costa 250.000 euro iscriversi, cioè sono 150.000 euro più altri 100. Mediamente, se uno ci vuole andare con un addetto stampa, un portavoce e un'altra persona, paga 600.000 euro. Vale per fare gli incontri B2B di lavoro, fare affari, ci mancherebbe, però diciamo, come capacità previsionale non si capisce cosa serva. Dopodiché chiudo con Davos citando il rapporto di Oxfam, che è una delle principali organizzazioni attive nel no profit a livello mondiale, che ha fatto un semplicissimo calcolo: i 100 uomini più ricchi del mondo hanno un patrimonio che è di 240 miliardi di euro, ok? Ora, se destinassero i 100 uomini più ricchi al mondo metà del loro patrimonio alla lotta alla povertà, avremmo le risorse per sconfiggere la povertà nel mondo, e loro resterebbero con 120 miliardi di dollari di patrimonio. Cioè, invece che 24 miliardi e 2 miliardi e 4 ti restano 1 miliardo e 2, ce la puoi fare a campare, e nel frattempo la chiudiamo con la povertà nel mondo. Però non ho voglia di parlare di Davos oggi, ho voglia di sentire che cosa ha detto il reduce da Davos, dove è stato acclamato, dove tutti obiettivamente, se votassero a Davos, Mario Monti sarebbe presidente del Consiglio. Mario Monti che ha detto: se vinceremo noi, se vi sarà un governo insomma nostro, giù IMU dal 2013 e giù IRPEF e IRAP dal 2014. Ci proponiamo di accrescere a partire dal 2013 la detrazione sulla prima casa da 200 a 400 euro. e raddoppio delle detrazioni per figlio a carico da 100 a 200 euro per figlio e per anziani soli, fino a un massimo di 800 euro. Il costo stimato è di 2 miliardi e mezzo. La copertura viene dal contenimento della spesa corrente primaria, pari a circa 3 miliardi. IRAP ridotta e favorevole al lavoro dal 2014, cioè eliminazione del monte salari dalla base imponibile dell'IRAP. Il totale della riduzione dell'IRAP alla fine della legislatura sarà pari a un dimezzamento dell'attuale carico fiscale sul settore privato. Sono 11,5 miliardi di imposta in meno in 5 anni sulle imprese. Meno IRPEF dal 2014. Vogliamo ridurre in maniera significativa il peso dell'IRPEF a partire dai redditi medio-bassi e la riduzione avverrà attraverso l'aumento delle detrazioni per i carichi familiari e la riduzione delle aliquote a partire da quelle più basse. Complessivamente ridurremo il gettito IRPEF di 15 miliardi e mezzo, corrispondenti a una riduzione del rapporto tra gettito e PIL del 2%. E poi su un'ipotesi di manovra correttiva, io non escludo niente in certi casi di esito del voto, dice Monti. Io la escludo, ma dipende poi dal voto. L'Italia a rischio, gli viene chiesto, dipende da cosa si fa dopo il voto. Non voglio creare timori e terrori né in Italia né all'estero, ma è concepibile che a seguito delle elezioni prevalgano, io credo e spero di no, ma prevalgano visioni da Prometeo incatenato e che desiderino cercare di rompere subito le catene, cioè il contesto europeo nel quale l'Italia si muove, mentre può essere altamente opportuno lavorare perché certe catene si disserrino un po' e il contesto europeo cambi, consiglierei di farlo avendo prima acquisito molta credibilità all'interno per essere credibili in questo negoziato. Quello va bene, ma se si pensasse di andare noi italiani per una nostra strada senza che il quadro europeo cambi, questo naturalmente credo che lo pagheremmo presto in una ripresa della salita dei tassi di interesse. Reazioni politiche. Dice Massimo D'Alema sulle frasi di Monti sul calo delle tasse: la campagna sul calo delle tasse in questi giorni in cui si parla appunto di riduzione delle tasse assomiglia ad uno striptease. Berlusconi ci ha abituato a questo tema e al fatto che nelle campagne elettorali ora vengano eliminate le tasse, ma naturalmente non è vero nulla, a partire dallo storico e leggendario meno tasse per tutti. Anna Finocchiaro, capogruppo al Senato del Partito Democratico, aggiunge: fino a un mese fa il governo assicurava che non si poteva spendere un euro in più per esodati e terremotati, oggi si scopre che sarebbe in grado di ridurre IMU e IRPEF e parla di somme immaginifiche. Forse il Presidente del Consiglio ha perso il senso della misura. E poi sempre il PD dice che Monti è come una matriosca, lo chiama Mariosca, perché sotto l'Oden vi sarebbe il Cavaliere per il modo in cui promette di tagliare le tasse. Il Cavaliere, ossia Berlusconi, dice: le cose dette dalla sinistra e da Monti sono soltanto chiacchiere. Perché mai gli italiani dovrebbero credere a un signore che ha tassato tutto il tassabile e che da tecnico, nemmeno un mese fa, ha detto che se fosse stata toccata l'IMU sarebbe dovuta arrivare una IMU doppia. Mi sa che c'è il tempo per il meteo, per la pubblicità. Poi andiamo, questa è l'Italia politica, l'Italia della campagna elettorale. Poi c'è l'Italia reale, anche oggi due fotografie, una di Rete Imprese per l'Italia, l'altra dell'Istat sugli stipendi. Una sola risposta a chi scrive al 349-238-6666 su Davos, mi dà del provinciale, dovrei andarci. Guarda che ci siamo andati a Davos come Radio 24 per 2 anni. Davos serve solo a chi ci va, nel senso a fare affari. Escludo che possa servire al resto dei comuni cittadini e poi nei fatti lo devi dimostrare. Se tu non hai saputo tirar fuori uno straccio di previsione sulla crisi che stava arrivando neanche nel 2008, non interessi. È un ottimo posto dove fare affari i grandi gruppi, i grandi manager, i grandi miliardari, ma certo, nessuno glielo tocca. È un modo per fare B2B, molto alto, molto chic, B2B. Di nuovo in diretta il grido di dolore, si può dire così, delle imprese aderenti al mondo del commercio. Oggi lo ha sintetizzato il presidente Sangalli: senza impresa non c'è salvezza, contrario a un aumento dell'IVA, che invece è uno dei punti della proposta di Confindustria per trovare risorse per abbassare le tasse sul lavoro. Lì, qui c'è una differenza netta tra il mondo delle imprese, manifatturieri in primo luogo, ma anche dei servizi, e il mondo del commercio. È chiaro, insomma, l'IVA va a impattare poi più sul mondo del commercio in questo caso. E poi la richiesta che arriva dal mondo del commercio alla politica: non faremo sconti a nessuno senza impegni puntuali. La nostra richiesta si rivolge dunque alla politica ed è una richiesta esigente e severa. Esigente perché vogliamo vedere i programmi elettorali e misurarli sulle esigenze tanto delle imprese che noi rappresentiamo quanto degli interessi generali dell'Italia. Ma è anche una richiesta severa perché non ci accontentiamo né di promesse né di sogni e diffidiamo di ogni scorciatoia. Chi ci chiede cosa siamo disponibili a dare in cambio di questa politica, noi rispondiamo che ogni giorno diamo all'Italia occupazione, stabilità economica, coesione sociale, prodotti e servizi che ampliano ed arricchiscono il mercato, investendo e pagando di persona. Noi non chiediamo privilegi, ma opportunità e strumenti per ritornare a crescere. Alla politica chiediamo perciò parole di verità sui tempi ancora difficili che ci attendono. Chiediamo impegni puntuali e coerenza di azione. Siamo gente concreta, sapremo valutare e distinguere se ancora siamo in periodo di saldi. Su questo di sconti non ne faremo a nessuno. E anche oggi i dati che arrivano obiettivamente fanno tremare i polsi, perché la crescita delle retribuzioni nel 2012 è stata la più bassa dal 1983, più 1,5% appena, ma soprattutto il divario tra quanto aumentano i prezzi e quanto aumentano gli stipendi è ai massimi dal 95. L'inflazione ha fatto più 3%, le retribuzioni contrattuali più 1,5%. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento Simonetta Cavasin, che è direttore generale di ODM Consulting, società specializzata nelle risorse umane di G-Group. Buonasera, dottoressa. Buonasera. Voi state per uscire col 15° rapporto sulle retribuzioni in Italia, curato proprio da ODM Consulting. Si ritrova in questi dati aggregati dell'Istat? Allora, mi ritrovo come tendenza di carattere generale, cioè sicuramente negli ultimi anni la competitività degli stipendi italiani si è ridotta in modo veramente significativo. Dal nostro osservatorio, per quanto riguarda l'anno 2012 e per le elaborazioni che stiamo ultimando in questo periodo, stiamo rilevando un timido segnale di ripresa rispetto appunto agli ultimi 5 anni. Quindi in linea generale mi ritrovo assolutamente. Sullo specifico 2012, per l'osservatorio che abbiamo, il nostro database è un database di carattere gestionale, noi lavoriamo su circa 500.000 profili retributivi, abbiamo appunto qualche segnale di ripresa per quanto riguarda in modo particolare figure di dirigenti, ruoli dirigenti e quadri. Ecco, sulla parte dipendenti operai? Allora, sulla parte dipendenti, diciamo impiegati e operai, invece il segnale è un segnale di continuità con gli anni precedenti, quindi ancora un segnale, tra virgolette, critico, quindi di perdita di competitività, che comunque rileviamo in generale, perché anche se il segnale appunto che abbiamo noi è di timida ripresa, questo non è una controtendenza, quindi non c'è una controtendenza, c'è sicuramente una possibilità che forse anche per quanto riguarda appunto quello che Confindustria in qualche modo si augura, forse già negli stipendi forse si sta rilevando, insomma. Questa controtendenza, per concludere, dottoressa, voi come la giustificate? Cioè, non mi sembra che sia un anno che permetta di avere previsioni in controtendenza. Perché nella parte alta? Allora, noi con le aziende con le quali lavoriamo, ci confrontiamo in modo costante, stiamo verificando che le aziende stanno lavorando sul tema della meritocrazia e della differenziazione. Bene. Cioè, i soldi sono una risorsa scarsa, sempre più scarsa, e quindi il lavoro che le aziende stanno facendo è quello di cercare, attraverso strumenti quali la valutazione della performance e comunque una gestione mirata degli aumenti retributivi, appunto di riconoscere comunque aumenti retributivi a chi porta un contributo rilevante all'interno dell'azienda. Quindi differenziare e la meritocrazia sono un po' gli elementi sui quali riteniamo si stiano verificando questo tipo appunto di impatti e contribuiscono a portare questo tipo di impatti. Quindi lei dice, se posso forzare l'analisi, siccome le risorse sono poche, quel poco che si ha si cerca di dare in maniera meritocratica, e quindi selezionando molto? Sì, si cerca di costruire, di lavorare sul tema della meritocrazia. Ma perché non avviene anche nella parte bassa, mi scusi? Cioè, non è che la meritocrazia riguardi solo i dirigenti e i quadri, no? Una leva rilevante per quanto riguarda la parte bassa è sicuramente il lavorare su contrattazione nazionale, ma anche di secondo livello, sul premio di risultato. Quindi e questo è un altro da altre analisi che noi stiamo portando avanti, abbiamo fatto anche un'analisi sul premio di risultato, è un altro spunto sulle quali le aziende hanno e vogliono lavorare. Quindi in questo caso il portare figure più operative a essere spinte a dare un maggior contributo, diciamo, all'azienda, è anche determinato da quanto l'azienda riesce a lavorare su riconoscimenti, quale il premio di risultato, il premio di produzione. Ecco, un'ultima domanda, mi scusi, ma quando lei dice che per la parte impiegati e operai c'è continuità con gli anni precedenti, intende dire che il padulo è rimasto lo stesso? Intendo dire che c'è una variazione retributiva poco rilevante da parte, per quanto riguarda queste figure di impiegati e di operai. Cioè che resta quello, no? Non so se il padulo possa essere utilizzato come termine, diciamo, nella trattativa sindacale, però insomma che continuano a essere compressi i salari della fascia bassa. Della fascia più operativa della popolazione. Più operativa di chi lavora? No, mi dica, perché è inutile girarci attorno. Cioè, insomma, quel poco che c'è si dà ai quadri e ai dirigenti? Allora, quel poco che c'è sicuramente viene ragionato e costruito per riconoscere il contributo dei quadri e dei dirigenti. L'altra però parte sulle quali le aziende stanno lavorando è la revisione del premio di risultato. Okay. E quindi sicuramente sulla parte fissa della retribuzione c'è una difficoltà forte nell'aumentare questo tipo di leva. Si tratta sicuramente di lavorare sulla parte variabile della retribuzione, quindi per gli operai e gli impiegati la leva del premio di risultato diventa una leva molto significativa. Grazie al direttore generale di ODM Consulting, Simonetta Cavasin. Il traffico, chiedo scusa per il ritardo, e poi andiamo sulla borsa che oggi faccio io e sul Monte dei Paschi, grande tema, l'altro grande tema di questa puntata. Poco fa la Banca d'Italia, però questo è importante darlo subito, ha detto che non c'è alcuna ipotesi di commissariamento. Fonti della Banca d'Italia dicono che Ignazio Visco, il governatore, già a Davos ha negato azioni immediate. Non è applicabile l'ipotesi di commissariamento ai termini della normativa vigente. Intanto però siamo arrivati a parlarne. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, adesso commentiamo la borsa, più 0,96% Milano, meglio di altre borse, oggi c'è la vicenda A2A, soprattutto più 5,94%, c'è anche la lettera al risparmiatore del Sole 24 Ore che rivede al rialzo le stime sul 2012, però visto che è appena uscita la notizia della Banca d'Italia che esclude ogni commissariamento per il Monte dei Paschi, secondo me è già un errore avere sollevato il tema. Lo dico soprattutto al sottosegretario Polillo, oggi ospite nostro e anche comunque... Vabbè, lasciamo sta. Vorrei collegarmi subito con Raffaella Calandra perché l'inchiesta a Siena va avanti, ma ci sono documenti acquisiti da più di un mese dagli inquirenti toscani, arrivati però anche a Milano. Raffaella, buonasera. Quali sono gli atti che gli inquirenti senesi reputano interessanti? Ce ne sono parecchi, chiaramente, perché è un'indagine molto complessa che va avanti da oltre un anno e che si compone di diversi rivoli. Partiamo da quelli di cui noi al momento abbiamo notizia. Ed è nascosto nelle pieghe di un'indagine italo-svizzera la traccia che potrebbe aprire nuovi scenari in questo intricato affare. Una traccia che parla di società di mediazione come la Lutifin o Enigma, di titoli in sofferenza da sostituire con altri in salute e di alte commissioni per i manager. Ed è questo un punto molto importante. No. Alte commissioni per i manager. Strano, però adesso ve lo racconto. Una traccia che viene spalancata da dichiarazioni a verbale che noi abbiamo acquisito di un ex funzionario della Dresdner Bank con cui MPS chiuse un'operazione attraverso appunto la Lutifin, che è una società di Lugano. Ebbene, a proposito di due big di Rocca Salimbeni come Matteo Pontone, responsabile della filiale di Londra dell'istituto, e dello stesso capo dell'area finanza, Gianluca Baldassarre, quell'area cioè che partorì le famose contestate operazioni Alexandria e Santorini, ora al centro appunto dell'inchiesta, questo manager dichiara agli investigatori loro erano conosciuti come la banda del 5%, leggiamo nel verbale, perché su ogni operazione, dichiara agli investigatori milanesi, prendevano tale percentuale. Una denuncia dunque molto forte che è stata sottoscritta nell'autunno 2008 in un verbale che, come dicevo, Radio 24 ha avuto e che è tra gli atti che i magistrati senesi hanno acquisito da Milano e che è utile perché nella ricostruzione di questa singola operazione, quella che MPS fece con Dresdner Bank attraverso Lutifin, sembra esserci anche la ricostruzione di un intero metodo Siena, diciamo, un metodo dove la società di mediazione veniva utilizzata quale veicolo per effettuare pagamenti riservati ad alti dirigenti, scrivono gli investigatori della Guardia di Finanza, in cambio dell'acquisto di un pacchetto titoli all'interno dei quali ve ne erano alcuni che presentavano forti perdite, nello specifico per la banca Dresdner Bank. Insomma, una sostituzione tra titoli in sofferenza con altri in salute, in modo tale che, nel caso di questa vicenda, era consentito a Dresdner Bank di neutralizzare le perdite che stava subendo, scaricandole di fatto in capo a MPS. Perché questa operazione è importante? Oltre al fatto che è importante perché si sta ricostruendo appunto tutto quello che all'interno della banca è successo dal 2007 in poi, cioè dal momento in cui c'è stato l'acquisto di Anton Veneta, il punto su cui i magistrati si stanno concentrando è come si è arrivati a quella sofferenza, diciamo, della banca che ha portato i vertici alla a forme di ingegneria finanziaria, sì, passatemi certo. Il termine, che ora vengono contestate. Però qui c'è uno schema, adesso poi ti riprendiamo dopo il GR, Raffaella, qui c'è uno schema che purtroppo abbiamo già visto, cioè quando ci sono operazioni di ingegneria finanziaria, chiamiamola così, c'è un motivo ufficiale, quello generale, mantenere, cercare di recuperare soldi, margine, utili anche per il costo dell'operazione su Anton Veneta, però poi sempre vediamo, l'abbiamo già visto anche nel passato, che c'è anche qualcuno che ci guadagna, cioè non è un'operazione solo fatta per il bilancio della banca e dei suoi azionisti. I manager che conducono queste operazioni spesso ci guadagnano, e poi io aprirei una parentesi, ma non ho tempo, chissà perché l'operazione Alexandria utilizza società che hanno sede in Corea. C'è tutto un insieme di elementi poco chiari. Quello che tu ci hai appena raccontato va in questa direzione. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, stavamo concludendo il collegamento con Raffaella Calandra, che ci ha raccontato come documenti della Procura di Milano interessino anche gli inquirenti senesi, la vicenda del Monte dei Paschi, l'ipotesi molto forte anche giudicare dalle dichiarazioni rilasciate ai magistrati che in tutte queste operazioni di finanza creativa, chiamiamola così, ci fosse dietro anche una mazzetta, anche un 5%, così citano alcune dichiarazioni date da alcuni manager che organizzavano queste forme di architettura finanziaria che prevedevano i derivati. Raffaella, il punto cruciale dell'indagine però resta l'acquisizione di Anton Venta, strapagata, 9 miliardi, la pagò pochi mesi prima il Santander, 6 miliardi, e quella che poi la madre di tutta l'operazione, perché da lì poi la necessità del gruppo di trovare fonti alternative per creare liquidità cassa. Esatto, ed è da lì infatti che parte un po' il cuore un po' dell'indagine, da quel 2007, e in questo momento, seguendo un po' il percorso, diciamo, che degli atti che sono arrivati sul tavolo della procura senese, possiamo dire che vediamo che ci sono pezzetti che arrivano dall'intero gota della finanza italiana. Infatti indietro da Rocca Salimbeni conducono fino agli uffici delle principali banche tutti gli atti che sono arrivati a Siena, da Intesa a Deutsche Bank fino a Goldman Sachs e soprattutto a JP Morgan, che è stata capofila di quel consorzio di 11 istituti di credito che prestarono alla fondazione MPS quel miliardo di euro per coprire l'aumento di capitale della banca dopo l'acquisto di Anton Veneta da Santander. Ebbene, questo snodo cruciale è stato tracciato dagli investigatori in quei 38 decreti di perquisizione firmati dal giudice, dalla GIP senese già nel maggio scorso, e che andarono a perquisire anche molte banche. Ed è allora che il quadro investigativo cominciò a tracciarsi, con i sospetti di una manipolazione del titolo Anton Veneta proprio per sostenere il prezzo di quell'acquisto ed evitare, come ci ha spiegato stamattina un investigatore, la caduta sotto la soglia fissata per il reintegro delle garanzie alle banche creditrici. In questo momento che cosa stanno facendo gli investigatori e soprattutto gli uomini del nucleo valutario della Guardia di Finanza, alcuni dei quali si erano anche già occupati della prima parte della storia di Anton Veneta, cioè quella della tentata OPA fallita di Giampiero Fiorani della stagione di Furbetti? Stanno verificando l'effetto che le varie dichiarazioni al mercato date dai manager della banca hanno avuto sul titolo, per capire che tipo di effetto e di oscillazione hanno ha provocato. Ed infatti tra le ipotesi di reato c'è anche proprio quella della manipolazione del mercato, dell'aggiotaggio, oltre al falso in bilancio e all'ostacolo per gli organi di vigilanza. Grazie Raffaella Calandra, perché era importante anche l'aggiornamento sul fronte giudiziario, perché qui c'è un fronte giudiziario, quello della tenuta della stabilità della banca. Lo abbiamo dato noi con le dichiarazioni della Banca d'Italia, nessuna ipotesi di commissariamento. Ringrazio intanto l'editorialista del Sole 24 Ore, Guido Gentili, per averci raggiunto in studio oggi. Buonasera Guido. Buonasera. Con te vorrei fare un'operazione che spero non essere troppo pindarica: tenere assieme le dichiarazioni di Mario Monti oggi sulle tasse, le reazioni che hanno comportato, con la gestione della vicenda Monte dei Paschi, che mi sembra che alla politica interessi solo come clava elettorale, ma non per... Non so, io una proposta di una legge per fare in modo che vi sia maggiore trasparenza nella gestione di una banca, ancora non l'ho vista. Ma ci arriviamo tra un secondo. Per quello che riguarda la giornata di borsa, vi do io il commento. La borsa oggi ha guadagnato l'1%, di A2A già dicevo, c'è la lettera al risparmiatore del Sole 24 Ore che ha rivisto a rialzo tutte le stime, più 5,94% il titolo nel finale, bene anche Mediolanum, più 4,5%, ci sono report di una prospettiva migliore nella raccolta dei fondi, bene anche Fiat, che tra l'altro in settimana pubblicherà i dati del quarto trimestre, si stima che possono essere aggiornati negli obiettivi. Fiat Auto più 2,25%, Fiat Industrial più 2,80%, Impregilo beneficia con un più 1,25% il fatto che i Salini abbiano respinto il ricorso di Gavio in tribunale. È ancora negativa ST Microelectronics dell'1,33%, Autogrill meno 0,80%, come Prisma meno 0,50%, perde Buzzi Unicem e anche Lottomatica. Poco altro, cosa manca? Mancano le banche. Monte dei Paschi oggi fermo in borsa sostanzialmente, più 0,60%, mentre bene Banco Popolare più 3,40%, bene la Popolare Emilia Romagna più 2,10%, Unicredit più 1,80%, segnalo anche Ansaldo STS più 2,85% e Intesa San Paolo più 2,60%. Restiamo sulla vicenda Monte dei Paschi, perché al di là del commissariamento adesso escluso, la nostra Deborah Rosciani ha intervistato Gianfranco Antognoli, manager di lungo corso del gruppo Monte dei Paschi, che ha diffuso un documento in cui ha ricostruito le vicende degli ultimi tempi. In particolare ha puntato il dito sulle modalità in cui venne fatta l'operazione Anton Veneta Santander. Lui non amava essere condizionato, fece un report su questo, fu allontanato giustamente dalla banca perché è invitato al pensionamento. Sentiamo l'intervista con Deborah Rosciani. Ho valutato che ci voleva una discontinuità nella governance del Monte dei Paschi di Siena e diciamo che l'ho messa a disposizione delle persone che mi stimano. Poi dico, l'uso che ne hanno fatto completamente dico non lo conosco, quindi in parte lo ignoro. Certamente dico, questo era uno studio fatto in modo oggettivo, professionale. Poi dico, l'ho ripreso in questi giorni perché è diventato di grande attualità. Ho cambiato soltanto qualche aggettivo, ho integrato soltanto con gli ultimi avvenimenti che sono noti a tutti, ma niente di particolarmente innovativo rispetto al documento iniziale che è datato 8 mesi fa. Quanti anni ha lavorato per conto di Monte dei Paschi? Sostanzialmente io sono entrato subito appena passato l'esame di Stato, sono ragioniere, quindi nel 1970 entro in Banca Toscana che assumeva i primi due diplomati nell'ambito delle province di Lucca e di Massa e poi ho fatto tutta la carriera all'interno di Banca Toscana fino a diventare dirigente centrale. Nel 2006, non potendo diventare direttore generale della Banca Toscana perché c'era una convenzione ad excludendum, come nel PC di Berlinguer, non poteva governare, allora sono andato a fare il direttore generale di Monte Paschi Leasing e Factoring, che è la banca, una delle banche di medio termine del gruppo Monte dei Paschi, che fa appunto leasing e factoring. E quelli sono proprio gli anni in cui si è, come dire, consumata la questione che oggi ritorna prepotentemente alla ribalta della cronaca, cioè l'acquisizione di Anton Veneta da parte dei Monte dei Paschi dagli spagnoli, sì, di Santander. Come, sì, si ricorda quegli anni, quel passaggio, dottor Antognoli? Io me lo ricordo molto bene perché io ho organizzato come direttore generale un consiglio di amministrazione importante. Finito il consiglio di amministrazione abbiamo ricevuto la telefonata dal vicepresidente della banca Monte Paschi Leasing Factoring, che nel periodo mi pare che fosse anche nel consiglio di amministrazione, nel board della capogruppo, ci ha telefonato che era stata acquisita Anton Veneta. E quindi lo ricordo molto bene, era pomeriggio uggioso, come si dice nella canzone, e così noi siamo stati tutti contenti perché eravamo ignari di quello che sarebbe poi anche avvenuto. Quando ha sentito il prezzo? Beh, quando ho sentito il prezzo mi sono preoccupato perché soprattutto mi sono preoccupato di un particolare. Naturalmente io ora non ricordo Banca Anton Veneta, che è stata acquistata dal Monte dei Paschi senza fare una due diligence. Lei era a conoscenza delle operazioni Alexandria, Santorini, Nota Italia? No, assolutamente no, perché diciamo queste transazioni di carattere finanziario erano appannaggio degli uffici specifici della capogruppo. Quindi ritiene plausibile la ricostruzione secondo la quale poche persone, pochi manager fossero a conoscenza di queste operazioni, e ritiene plausibile la ricostruzione secondo la quale questa documentazione che racconta i dettagli di queste operazioni, i contratti, fossero chiusi in una cassaforte che sono stati appunto ritrovati di recente? No, questo è un altro paio di maniche. Cioè, io ritengo che queste operazioni siano state concluse nel chiuso degli uffici specialistici della capogruppo, però dico dovevano essere doverosamente messi a conoscenza del consiglio d'amministrazione, considerati gli importi e la motivazione e la finalizzazione degli stessi. Io dico che sicuramente questa ricostruzione, che le operazioni erano a conoscenza di pochi, è una ricostruzione che mi convince. Questo non vuol dire che è stata fatta correttamente, questo lo decideranno i magistrati e comunque l'autorità inquirente, questo non tocca a me. Io credo che quando ho fatto un'operazione di questo tipo ho messo sicuramente non a conoscenza del consiglio di amministrazione, ma il consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale ha deliberato come e di conserva anche con la capogruppo, nel caso mio che ero titolare di una funzione che comunque era nell'arco di una governance di gruppo. Lei, lo abbiamo ricordato all'inizio, il suo ultimo incarico in Banca Monte dei Paschi è stato quello di direttore generale di MPS Leasing e Factoring, quindi il sostegno finanziario, il credito alle imprese. Nella sua attività, dottor Antognoli, è mai stato condizionato A, politicamente, B, dalla Fondazione Monte Paschi? Ma onestamente assolutamente no. Io le posso soltanto dire che pur avendo fatto una performance cioè di non poco conto, perché sono arrivato nel 2006, eravamo quindicesimi nel ranking nazionale come Monte Paschi Leasing e Factoring, e dico, avevamo una quota di mercato del 2,73, e quando sono uscito per il pensionamento non mi lamento, ma insomma io sono stato pensionato a 58 anni e mezzo, quando la legge consentiva alla banca di tenermi in servizio attivo fino a 65 anni, anche se logicamente io ho maturato con 40 anni di anzianità il massimo pensionato. Dicevo, tutto ci ciò sta dicendo che è stato invitato ad andare in pensione? Sono stato cordialmente invitato al pensionamento. Ho avuto un suggerimento spintaneo, non spontaneo. Tornando invece appunto ai condizionamenti relativamente alla sua attività? Ma io credo che la spinta sia frutto del fatto che evidentemente personalmente non ero disponibile a essere consigliato. Insomma, a sentire questo racconto sembrerebbe proprio che l'operazione Anton Veneta fosse da fare a qualunque costo, e il costo poi lo stiamo vedendo in questi giorni. Adesso c'è il traffico e poi l'operazione più difficile in questo programma ce l'avrà Guido Gentili, perché tenere assieme Mario Monti, che in veste di politico abbassa le tasse, a me è piaciuta moltissimo la battuta, devo dire, del PD, che ha detto l'ha chiamato Mariosca, Matriosca, perché detto che sotto Monti, sotto l'Oden c'è Berlusconi. No, adesso al di là della battuta, qui ci risiamo. La grande linea economica, il grande disegno per far ripartire il paese è annunciare cali di tasse a tutti i livelli, IMU, IRPEF, IRAP, senza uno straccio di capacità di capire dove arriverà la copertura, e come se bastasse abbassare le tasse per far ripartire la produttività e l'economia italiana. Faccio notare che nessuno si sta impegnando seriamente a dire cosa farà in Europa, mentre secondo me la partita è tutta europea. O ci leviamo dalle scatole sto fiscal compact alla tedesca, o qua moriremo tutti quanti per far ricchi i tedeschi. Detto ciò, anche sul Monte dei Paschi tanta polemica politica, il PD che dice non lo sapevamo, e vabbè, la battuta dell'anno, però il PDL che attacca la vostra banca, nessuno che ci chiarisca come non ripetere più queste cose. Allora, Guido Gentili, viene voglia anche di sorridere ogni tanto, perché insomma qua. Ma che sta capitando? Cioè, stiamo discutendo da settimane di alleanze, sì con Vendola, no con Vendola, apriamo a destra, scontro Monti Berlusconi, scontro Monti Bersani, tutti che le sparano sulle tasse, e voglio dire, noi commentiamo dati invece di salari, come incremento ai minimi dall'83, divario massimo con l'inflazione dal 95, consumi ai minimi dal 94, disoccupazione ai massimi dal 92. Ma non so, siamo un programma parallelo in uno stato parallelo o forse c'è una sì. distonia? Prego. Innanzitutto dobbiamo dire che abbiamo passato un anno sull'onda dell'emergenza e sembrava che tutto potesse crollare da un minuto all'altro. Questo è stato tutto il 2012, dopo improvvisamente siamo entrati in campagna elettorale. Sì. E a quel punto abbiamo perso qualsiasi l'emergenza sembra evaporata. Tutte le forze politiche, dico tutte, compresa l'ultimo entrato in campo, cioè il presidente del Consiglio Mario Monti, governano in questo momento da un lato e fanno le loro scelte rispetto con i sondaggi elettorali in mano. E da qui nasce una campagna elettorale molto complessa e molto confusa, dove appunto non ci sono programmi chiari, nessuno ci dice quello che accadrà il giorno dopo le elezioni, in particolare riferimento esattamente, come hai detto tu, a quello che sarà il percorso europeo, perché sono i vincoli veri che c'erano prima e ci saranno dopo, e c'è una grande rincorsa ai temi che possono portare qualche consenso elettorale in più, in particolare le tasse. E quindi c'è questa incredibile rincorsa parallela, diciamo, dove tutti si stanno distinguendo per prospettare delle riduzioni del carico fiscale, che certamente è insostenibile, ma era insostenibile anche quattro mesi fa. E non si sa bene con quali risorse fare queste riduzioni. Ma io non ci capisco niente di economia, è noto, però se c'è una previsione di PIL in calo doppio rispetto alle attese di tre mesi fa, -1%, sì. Si è sempre detto che non potevi toccare l'IMU perché venivano meno i conti. Adesso tutti parlano allegramente di ridurre le tasse con un PIL che continua a calare, quindi sì. Se continua così ci costringerà a fare un'altra manovra comunque. Altro che ridurre le tasse, voglio dire. Mm. Anche perché è vero che siamo in regime di pareggio di bilancio, però il pareggio di bilancio non c'è scritto come va conseguito. Cioè, questo lo si può fare abbassando la spesa pubblica o alzando le tasse. Noi il pareggio di bilancio l'abbiamo sempre fatto alzando le tasse, mai abbassando la spesa pubblica. E quindi rischiamo di andare in direzione esattamente opposta alla riduzione delle tasse. Sì, tra l'altro, così come il contenimento del deficit lo puoi fare spendendo di meno o anche aumentando il PIL, cioè il denominatore, perché esatto. Se qua continuiamo a vitarci tu puoi tagliare quanto vuoi, ma se esatto. Il PIL continua a vitarsi il tuo deficit, se non c'è crescita. Allora io chiedo, secondo te, e vale anche per la vicenda Monte dei Paschi, grandi scontri all'inizio con dichiarazioni al limite del ridicolo, ma voglio essere oggi clemente, sul rapporto banche politica, per favore. Che non c'è mai stato, lo sapevamo questo, non c'è mai stato un rapporto banche politica, nel senso che per esserci un rapporto bisogna che ci siano due soggetti distinti, invece è impossibile avere un rapporto con un soggetto unico, ma detto questo, nel paese si respira palesemente questo smarrimento anche per il vuoto di contenuti. Cioè tutti immaginavamo una campagna elettorale giocata sui temi dell'economia, non della sicurezza, non della famiglia inteso come valori etici, proposte concrete, mentre governava Monti i partiti dovrebbero aver avuto modo per studiare e arrivare con un pacchetto di proposte, un decalogo. Non si sente niente, il vuoto pneumatico. Secondo te questo cos'è? È il preludio a un governo alla fine tecnico di grande coalizione? Cioè che nessuno ce la farà? Il problema è che nessuno lo sa questo. Non sappiamo che cosa, verso quale... Ovviamente c'è un voto e quindi il giorno dopo, il 25 di febbraio, potremo... finalmente commentare i risultati di questo voto e misurare i rapporti di forze che si saranno formati in Parlamento. Certo che colpisce che, ripeto, dopo un anno di emergenza rischiavamo di mettere in crisi addirittura l'Italia, rischiava di mettere in crisi addirittura la tenuta dell'Eurozona e poi della stessa Europa, e siamo qui a vedere se aumenta, di quanto aumenta giorno per giorno la percentuale dei consensi qui o là, ad esempio in riferimento a quella che è stata definita l'Ohio d'Italia, cioè la regione decisiva che sembra essere la Lombardia. Quindi siamo a un piccolissimo cabotaggio dove non c'è nessuna proposta concreta sul da farsi. Mm. E secondo te questo come si rifletterà poi nel... tanto andremo a parlarne, a parte che vi confermo che invito Cetola Qualunque albanese, perché viste le proposte che arrivano, sicuramente albanese, che si occupa di economia, ripeto, ascolta spesso anche Focus Economia, e ci capisce di economia, più del conduttore sicuramente. Ma dico, al di là di tutti questi slogan d'accettola qualunque, perché poi insomma è vero che Monti oggi ha detto ma i soldi per abbassare l'IMU e l'IRAP li possiamo trovare con il contenimento della spesa corrente primaria di circa 3 miliardi, ma è il solito discorso, o mi dici dove, o, sì, se no, certo. O perché non l'hai fatto prima, perché 3 miliardi facevano comodo anche prima della campagna elettorale e magari levavi un pezzetto di cuneo fiscale anche lì. Secondo te l'esito quale sarà? Perché è palese che le idee sono poche e confuse, dai. L'esito è, appunto, dipenderà da quello, dal voto. I segnali che abbiamo oggi ci indicano una situazione di governabilità difficile, perché viene indicato come in testa alla partita in questo momento, come è noto, il PD alleato con il SEL di Vendola, però sappiamo che al Senato potrebbero non avere la maggioranza. Questo complica moltissimo le cose. Ci abbiamo un'incognita che è quella di Grillo, che ancora adesso tra l'altro è in risalita di sondaggi in questi ultimi giorni. Credo che dipenda molto dall'effetto Montepaschi su questo, certo, su questo terreno, e quindi andiamo verso una difficile governabilità, questo sicuramente, e questo purtroppo è la situazione peggiore in cui possiamo trovarci, proprio perché dobbiamo rispettare quelli che sono stati gli impegni presi da tutti in Europa. Grazie a Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Noi torneremo anche domani, come sempre, a occuparci di questo. Volete sapere come si chiama la canzone sottofondo? No, meglio che non ve lo dica, perché sarebbe un'incitazione alla rivolta. Vi auguro invece buona serata, e comunque vada, noi domani dalle 17 in poi, spero con una voce migliore, saremo in diretta.